il tuo baracchino è un president anche quello? Questo macchina sì, è un president mille di quelli piccolini. È il MIP è identico al mio. Esatto, sì, sì. L'ho riconosciuto anch'io che lo stesso. Niente, mille, giornata nera, adesso sono uscita per andare a lavorare, sono giù in strada a prendere la macchina. Ho visto che c'era un bigliettino e c'era scritto telefoni a questo numero per il danno al paraurti. Praticamente mi ha portato dentro tutto il paraurti. Scappa, non so se mi ascolti, ma il segnale tuo sta abbassando, sì. Io ti saluto fino ad adesso, se non ci sentiamo. Ok, è strano che abbia lasciato il numero, il numero di recapito. Di solito la gente fa danno e scappa, e se ne va, e basta. Signor Presidente, l'ha visto qualcuno, capito, e quindi l'ha dovuto mettere. Sì, probabilmente è stato visto, perché sono mosche bianche quelli che pagano i danni magari fatti occasionalmente così a macchine ferme. Esatto, poi la mia macchina era parcheggiata bene, oltretutto non era né in mezzo alle scatole di nessuno, parcheggiata vicino al cancello del nostro cortile dove la parcheggio sempre da anni, mai me l'hanno toccata. Qualche anno fa lo stesso l'ho messa sulla curva nel parcheggio regolare, è passato il camion della nettezza urbana e mi ha squarciato il parapanco di destra, capito? Non mi hanno detto niente, dal tipo di danno che c'era ho visto che doveva essere un camion e sicuramente era quello della nettezza urbana dove ha i pedali dove si siedono gli occupanti posteriori. Non mi hanno scritto niente, io non avendo testimoni non ho potuto farci niente se non farmela io. Eia, ha fatto capolino qualcuno, io lo mando avanti, avanti, buonasera. Marco Rio Condoro. Oh Luca, dopo tanto, ciao, ben sentito. Qua c'è Carlo che è in baramobile e sta andando a lavoro. Non so se lo senti. Carlo, vai avanti per Luca. Ciao Luca, già ti sento forte e chiaro, come Marco. Marco qua è a bomba. Eia, ciao Carlo. Basso, ti ascolto, ma ti ascolto, dai. Come sei arrivato? Sono sulla quattro corsie dove c'è il ponte di Riumanno, finisce il rettilineo, poi c'è il rifornitore sulla sinistra. Io sto andando ad Alghero però. Quella per l'ultimo stanotte? Sto praticamente dalle 21 alle 5 del mattino. Non ho capito, cosa hai detto Marco? Sì, da mezzanotte alle 5 del mattino, fa il turno di notte, Luca. Da mezzanotte? E se come va adesso a lavorare? No, no, aspetta, allora ho capito male io. Comunque se sta andando adesso magari entrerà, forse ho capito, ha detto alle 9 e io ho sentito a mezzanotte, infatti ho detto ma non tornano gli orari. Perché ci sono uvole a quest'ora? Ripeti Carlo. Dalle 21 alle 5 del mattino. Sì, sì, dalle 21 Luca, dalle 9. Io non so perché mi è venuto mezzanotte, ho sentito alle 9 e ho capito mezzanotte. E voli magari no, magari voli no, però l'aeroporto deve essere sempre presidiato, no Carlo? Luca chiedeva se c'erano voli notturni. Possono capitare, tipo ieri notte un volo ambulanza, capito, i voli d'emergenza e qualche carro postale, di notte sono solo quelli. E solitamente d'inverno finiamo massimo fino alle 11, ci sono i voli in arrivo, stanotte c'è il Milano di Napoli che arriva a mezzanotte. Copiato Luca? Sì, copiato, vabbè, purtroppo bisogna lavorare. Sì, poi l'aeroporto è una cosa anche un po' delicata, capito, tra, come ha detto lui, anche poste, soccorsi, no, aerei, voli di emergenza per portare persone che sono magari in situazioni critiche, condizioni critiche, dai. Va bene, io rinnovo i saluti per Carlo, perché mi stavo per fare il caffè, se no mamma mi sta mangiando il cervello, Luca, non te ne dico niente. Vabbè, riprendi Luca. Saluto Carlo di nuovo che il segnale un po' va e viene, e saluto anche te Luca, che tanto sto facendo roba anche per la cena. Ci sentiamo in migliori occasioni, che oggi è stata una giornata un po'. Vai Luca. Io sono andato adesso, infatti adesso mi devo, come si dice, organizzare a posto, a camera, dai. No, manco, non lo sento più adesso, lo sentivo basso prima. Prego. Mi Roberto, sicuramente loro coppia avanti? Avanti, ho sentito a Luca, a Marco e poi avete detto che c'è anche Carlo. Vediamo se mi ascolta. Ci sei, Carlo? Sì, Roberto, ti ascolto, forse è chiaro qua. Anche qua sta arrivando, 9, quasi 9 e 10, dai, ti ascolto bene io. Dove sei? A che altezza sei arrivato? Guarda, sto per finire la quattro corsie, adesso giro a destra e prendo la provinciale, quella due corsie, il rettilineo prima di Cotubella, dai. Ok, ti ascolto bene comunque. Ciao Carlo, ciao Luca e ciao Marco. Facciamo venire avanti a Luca così vediamo i saluti. Dai. Sì, dai, ciao Robe. Saluto anche a te. Avanti, riprendi. Ciao, ma Marco sta andando via o che cosa? Sì, ho i fornelli accesi, ti avevo salutato. Ciao Robè, ben sentito anche a te dopo tanto. Dai, ci sentiamo in occasioni. Ciao, ciao a tutti, ciao. Sì, ciao di nuovo Marco. Non so se ci sia qualche un altro, non l'ho fatto ascolto. Ciao Marco, ci sentiamo alle prossime, ciao. Ciao, ciao Carlo, arrivi ancora discretamente, da Santiago 7 più o meno, oscilla. Ciao, ciao a tutti, ciao. Luca, ci sei ancora? Sì, ti ascolto, Massino, vabbè io a secondo dove sei, Alghero non è che è buono per me, capito? Solamente per Roberto ti ascolta bene, avanti Roberto. Avanti Carlo, vediamo se ti ascolto. Penso di sì, anche Luca lo sento forte qua, forte chiaro, a te Roberto. Va bene, no, ti ascolto sempre 9, non si sia abbassate 9, 9 e 5. Ok, Luca dice che ti ascolta bene, a bomba anche a te. Sì, sono attaccato, Rob, per quello mi ascolta a bomba. Se sgancio, ma mi sente più molto più basso, dai. C'è il segnale più forte di coso, di Marco, che Marco era uno di quelli che era più forte, c'è quasi 9,40, lui era appena meno di 9,40. Ehi. Vabbè, diciamo, questa terra è stata messa a posto anche Roberto, capito? Vabbè, non accende? No, è stata messa a posto, niente. Stamattina mi sono divertito, ho acceso un pochettino, sono andato in banda laterale, mi sono spostato un pochettino, sempre qua sugli 11 metri. C'era questo di Doha, degli Emirati Arabi, ho parlato, arrivava benissimo, fortissimo, infatti appena ho chiamato subito sono andato con il nominativo, quello che mi sono iscritto a quel club, non so se vi siete iscritti, tipo Alfa Tango, qualcosa del genere, mi ha subito risposto e poi il ragazzo della Macedonia mi ha fatto pure la canzone. È un italiano vero, in italiano era il macedone, questo qui ha dato il nominativo di questi dei 27, degli 11 metri. Non è interessante, è carino questa roba. Ok, Carlo, tu te lo sei fatto? Quello mi sono scritto io, quello di Marsala sto parlando, quello di 165, whisky Mike, 105 sono. Claudio mi pare 102 finale. Tu Luca te lo sei fatto? No, negativo, non c'ero. È carino, interessante, ti mandano anche la tua QSL, te ne mandano tre, una c'è cioè, simbolo della Sardegna col tuo nome che ti conferiscono, poi c'è un'altra che c'è la città di Sassari e un'altra che c'è cosa c'è dietro? La Sardegna con i quattro muri e ti scrivono il tuo, fai parte del club Whisky, Tango, non me lo ricordo. L'ho provato oggi per la prima volta, ha funzionato. In banda laterale c'era un sacco di gente americana e di tutto e di più. L'altro giorno, quando è? Un paio di giorni fa lo stesso con questi americani stavo parlando, ma arrivano benissimo perché è poco frequentata quella banda, non è come qua la 27, diciamo nei canali normali, canali 10, c'è un po' di QRM, di lì è un po' più pulita, in banda laterale anche con pochi watt ti fai ascoltare. No, negativo Roberto, no, non ce l'ho neanche, sono orientato oggi, da. Ma quella venerdì c'è la mia compagna. Se ne è stato oggi, lui ripeto. A casa della mia compagna. Ah, passavo fuori che ripartito. No, ragazzi. Ok, vediamo Carlo se ci ascolta ancora. Avanti Carlo, se ci sei batti un colpo. Sempre 9, non ti abbassi da 9 qua il segnale, c'è un po' di fruscio sotto, purtroppo io ho qua sempre il QRM altissimo, però ti tiro fuori benissimo, nessun problema. Luca, l'hai ascoltato a Carlo? No, purtroppo non lo sento più. Avanti Carlo. ma io e Luca Fondoscala. No, sta andando bene, è sempre 9, non ti sono abbassato la 9. Anche tu Luca a fondo scala arrivi, mi sta dicendo Carlo. Io sento basso, se dovrebbe mettere un'antenna superiore, dai. Con un piccolo aiutino, vedrai che ce la fa poi. E lui ci sta uscendo con una quarantina di volanti in macchina. Sì, ma è un'antenna che non rende, capito? Non so, ma cosa c'è? Quella frusta nera tu, la come si chiama? Quella piccola, la non la 3001, la mini 3001, così si chiama. Sì, no, già ti ascolto, non c'è problema, però quelle, ho visto quelle, almeno quando ascoltava qualcuno, con quelle fruste nere caricate, diciamo funzionano più che bene, non dico a livello di turbo 2001, però considerando le dimensioni dell'antenna, che sono circa, mi sembra, 50-60 centimetri, forse un po' di più, funzionano più che bene rispetto a quelle con lo stile d'acciaio normale. Vai Luca. Sento Carlo. Non hai sentito. Carlo, ci sei ancora? No, stavo facendo un passaggio. In questo passaggio si è andata anche meglio, anche più forte la radio, probabilmente c'è qualche passaggio, soltanto ti mandi verso l'aeroporto ti sento ancora meglio, però non ti sei mai abbassato a 9,95 il segnale. Poi magari ti abbassi un pochettino quel pezzo della sella in mosca che poi giri quella specie di sottopasso, dici ma già ti ascolto, ok, adesso stai andando alle 9:20. Alla Coso la continuità territoriale l'hanno ripristinata, quindi se uno vuole partire da Alghero verso il continente paga la tariffa piena, così è. Ok, lasciamo sul continuo di bianco se vuole entrare qualcuno. Adesso c'è la partita, Luca, non te la guardi? Sì, guarda su DAZN. Come? Su DAZN. Ma perché ti sei fatto DAZN? Di Brescia. Ah, vabbè, no, sul cellulare adesso ormai ci sono i canali in altre lingue, te lo guardi tranquillo, sono puliti, nel senso non hai nessun problema perché c'hanno i diritti, ma sono di quei canali arabi, hanno acquistato i diritti, poi c'è anche la lingua inglese, tanto la lingua non te la futti nulla, i nomi dei giocatori, dico, mi ci stanno facendo un riscaldamento, anzi no, vabbè, questa è registrata perché sono 40, probabilmente stanno facendo vedere le immagini, ma tu devi vedere i servizi che fanno della partita, i collegamenti, che meglio di DAZN questi canali Abu Dhabi Sport. Sì, è vero, è vero. E una volta che ti ha fatto la disdetta. Ah, io non le sto più facendo, prima c'era quel canale, il decoder di Furi, della mia ex compagna, l'avevo fatto da Furi, vedevi tutte le partite in HD di tutti i campionati europei, brasiliani, portoghesi, inglesi, tutto, vedevi. Poi l'anno scorso, due anni fa, hanno perso i diritti perché l'ha preso DAZN, lo scadono con quest'anno, ma lo stavo facendo, poi ho detto, ma cosa mi ha fatto? Perché DAZN te lo puoi fare anche per un mese, poi ma lo guardo qua, non me ne ha fatto nulla, anche se la lingua è diversa, si dice l'ispagnolo, tanto è più o meno compatibile, capibile, cioè comprensibile come l'italiano, non me ne frega niente. Ma infatti se era Inter-Milan, esce a vedere. Vediamo a Carlo se ci ascolta ancora o se sei già arrivato. E no, beh. Stava parlando Carlo, cosa hai detto Carlo? Cosa hai detto? Sei già arrivato? Ti ascolto bene, sei più forte, adesso sei arrivato quasi 9:10. Bene, bene, 9 questo passaggio, sempre ti ascolto, se non dico radio 5 perché c'è un po' di fruscio, però ti tiro fuori tranquillamente. Ah, comunque me metti fuori tranquillamente, Carlo. Vabbè, anche io sono aperto, dai. No problem, dai, vabbè, ti lascio lavorare, allora, tanto adesso io mi guardo la partita e interrompo, dai. Ti saluto, buon lavoro e buon tutto, dai. Carlo, avremo modo di sentirci quanto prima. Ti rilancio a Luca, così ti saluta, anche se mi dice non ti stava ascoltando. Avanti Luca per i saluti. Ehi, allora, ciao Carlo, non ti sento più. Buon lavoro e buon tutto, alle prossime, dai. Ciao, ciao. Ciao, vabbè, anche a te, anche io chiudo, dai, che mi guardo la partita. Ehi, ciao a tutti anche gli amici eventuali in ascolto. Ciao ciao, correte da parte mia.